Una buonasera, Radio Città Fujiko, Max Macchia per un altro 451 frammenti sonori. Altro tempo, altri tempi, così ho voluto titolare questa trasmissione. Ovviamente tutti i giochi di parole, tutto quello che mi viene in mente con questo titolo va bene, proprio studiato in questa maniera, di certo buona sostanza parto dal fatto che l'altro tempo è un tempo musicale, gli altri tempi sono i tempi recuperati in un certo qual modo, appunto creando un'alterità appunto data da inizialmente sicuramente ritmi che ci portano e forse continuano anche le trasmissioni ultime, se non ultimissime, legate alle dance acide o tecnoidi, e poi ovviamente insomma con altro tempo e altri tempi si può giocare anche su quello che sono i tempi storici, le temporalità quindi che si succedono, e anche qua forse una sorta di operazione così, se vogliamo, non soltanto estetica, ma anche così potremmo dire, usando un parolone, insomma, quasi una bestemmia di questi tempi politici, anche una riappropriazione proprio del tempo, come molti artisti fanno a livello underground ovviamente, e per quanto riguarda invece buona parte del mainstream, di tempi ce ne sono veramente pochi, o perlomeno sono tempi decisamente ristretti, quindi ben pochi altri tempi. Forse è proprio un immaginario legato a un'assenza di tempo, sempre ammesso insomma che ci sia un immaginario legato ad un'assenza. Qua invece c'è una presenza legata appunto a un'alterità temporale, che può essere vista anche in termini appunto di stilistici, di quindi riportare una sorta di gioco però decisamente interessante, anche appunto in termini di linguaggio tout court, quelle che sono le lancette dell'orologio, per appunto trovare, ritrovare attitudini che ad esempio in Wata Igarashi troviamo, per quanto riguarda ancora una sorta di acid che però va a trovare una sorta di sottoscala, potremmo dire, e molto molto malinconico, con quella allure probabilmente legata a un modo di intendere anche certe wave, ecco, in questo senso l'orologio magari viene posto indietro, e poi con tutto quello che consegue rispetto alla modulazione e anche alla coscienza poi sonora, la conoscenza anche di appunto Wata Igarashi, quello che è stata la produzione fondamentalmente di un certo modo di intendere appunto l'acid dalla metà degli anni 80, dalla seconda metà fino appunto ai nostri giorni, ecco, che ci riportiamo anche allo scorso Future Acid, quindi in questo senso poi una sorta anche di costruzione possibile, temporale, e anche in questo senso insomma una sorta di sfida che lancia appunto questo giovane autore con questa Night, che ci dice anche, ci informa appunto di un'oscurità dentro un modulo acid, se vogliamo trattarlo come tale, che forse insomma poi aprendosi diventa appunto tutt'altro, musica, e poi tra l'altro la stessa acid nasce decisamente aperta. Per il momento Night. Wata Igarashi, un giapponese, beh, il nome già dovrebbe portarci appunto immediatamente in quelle terre. In realtà appunto in maniera non straordinaria, perché il Giappone ci ha abituato ben a varie eccentricità, se non appunto una vera e propria dialettica tutta loro rispetto alle musiche anche dance, sia in termini tecnoidi che ovviamente in termini più sperimentali, se pensiamo insomma a tante leve che sono state fondamentali poi per le musiche e per spingere appunto le musiche anche in un altrove sonoro, oltre che temporale evidentemente. Se pensiamo a Ryoshi Ikeda, tanto un nome su tanti altri appunto che hanno fatto delle sperimentazioni appunto sonore, ma per esempio sulla techno Kenichi con una anche capacità poi di riuscire a non smorzare mai quel carattere se vogliamo sperimentale appunto molto molto legato musiche che evidentemente hanno attraversato per secoli il Giappone e che a noi ritornano insomma come musiche magari più vicine a quello che è un'idea di ambient. Mi riferisco insomma chiaramente a tutta la buona parte insomma della cultura zen, alle musiche legate a questo che hanno poi influenzato ovviamente a loro volta e quelle che sono state appunto le prime sperimentazioni ambient, e forse anche appunto per questo questa veramente strana per noi dialettica, anche a distanza di molti anni, anche in termini insomma di globalizzazione piuttosto accelerata, ecco, di questi ultimi decenni, comunque suona ancora strano per tanti aspetti la dialettica appunto tra tradizionale e tecnologico che sono riusciti a compiere in Giappone, nelle musiche insomma è piuttosto palese, piuttosto evidente, ecco questo. Beh, anche sicuramente nelle musiche di Wata Igarashi, che appunto cercando un altro tempo legato a un discorso legato, se vogliamo, seppure insomma in maniera molto molto laterale, ecco, all'acid, poi arriva appunto alle elettroniche attuali, a un modo insomma di intendere i tempi, gli altri tempi nostri, come qualcosa appunto di possibilmente riscrivibile, ecco, potremmo dire, in termini appunto di musiche anche che vengono di fatto poi riscritte in termini sia prima, ma accennavo al modulo, ma in termini anche di attitudine appunto a questa scrittura, che è una scrittura decisamente informale, insomma quella legata appunto all'acid, come d'altronde poi tra l'altro con anche uno split con Voice of the Lake, Voice from the Lake, anzi italianissimi tra l'altro, che hanno una capacità veramente notevole di riuscire a creare un suono molto interessante per quanto riguarda anche addirittura un certo cantautorato italiano, se pensiamo insomma a una cover molto bella tra l'altro di Max di Paolo Conte, che così veramente potrebbe sembrare molto fuori luogo, in realtà è fatta in maniera elettronica non smarrendo, ecco, e non snaturando quello che comunque è un discorso piuttosto ampio che prendono Voice from the Lake, anche in termini di progetti vari che hanno donato Dozzi, l'abbiamo ascoltato l'altra volta in una forma piuttosto acid, qua abbiamo donato Dozzi appunto come Donato Scaramuzzi insieme a Giuseppe Tiellici che lavorano su una dilatazione, ecco, temporale, e quindi su un altro tempo di ascolto, un altro tempo anche di composizione, che crea evidentemente anche appunto una dilatazione temporale che ci porta verso altri tempi, se vogliamo, anche appunto in termini di se vogliamo molto vicino a quello che sono state molte sperimentazioni degli anni 90 proprio sulle ritmiche e su quello che poi diventerà uno step fondamentale come dubstep, appunto, ma per dare insomma un riferimento di massima su alcune cose fatte appunto da Voice from the Lake in termini insomma di soprattutto di suggestione, ecco, musicale, che attraversa appunto anche le loro musiche, come anche le primissime forme minimali di techno, che non c'entrano nulla con la minimal poi appunto sviluppatosi soprattutto negli anni zero. Ci andiamo appunto ad ascoltare Voice from the Lake, una sorta di percorso appunto dilatato dentro la performance live che ci danno appunto per qualche minuto insomma di ascolto i Voice from the Lake con questo altro tempo per l'appunto altri tempi di 451. suono che sicuramente insomma aveva il taglio comunque terreno poi della dance, seppur appunto acida quanto si vuole, o con rimandi, come avevamo detto all'inizio, con Vata i Garasci magari legati a suoni malinconici, se non melanconici addirittura, e con Voices from the Lake invece ha una sorta di appunto dilatazione comunque molto molto terrestre, ecco, potremmo dire, e quindi un'alterazione del tempo barra tempi legata appunto proprio a una se vogliamo a una manipolazione se non a modulazione anche del tempo musicale, del tempo ritmico in questo caso, quindi della battuta. Invece con Aya penso che si pronunci così, A-Y-Y-A, quindi dovrebbe essere una sorta appunto di lamento italiano, ecco, aia, perché ci riporta una sorta di qual misura anche lei a livello terrestre, perlomeno dalle foto, dalle poche foto molto insomma come dire lontane, non con dei primi piani decisamente chiari, ma con dei particolari, sembrerebbero una lei, però poco importa. Quello che importa da queste parti, che se appunto i Garasci e Voice from the Lake ci hanno portato appunto a uno spostamento, a un'alterazione del tempo, dei tempi, attraverso comunque una modulazione terrestre, ecco, se vogliamo, rimanendo ancora con i piedi dentro appunto la terrestrità. E invece per quanto riguarda Aya si va verso un suono utopico o distopico, e qua appunto come dire ci riporta ai nostri giorni di fatto, insomma, dove appunto una sorta di distopia eterna sembra affliggerci e non farci più uscire appunto da questo presente immobile, immobilizzato e quant'altro insomma si possa immaginare in termini appunto di tempi e di tempo accelerato, talmente accelerato da poi arrivare a una sorta di paradosso e riportarsi sempre su se stesso, una sorta di trottola, se vogliamo, di accelerazione della trottola, questo non per metafisiche varie, ma perché insomma funzionano così appunto, funziona così il sistema, e quello che è appunto un altro parolone della serata, se già insomma la parola politica può far politica, ma soprattutto può far paura, la parola società ancora di più, e sistema sociale, beh, immagino insomma che possa far insomma preoccupare, ecco, quantomeno di fatto insomma certe situazioni appunto vivano in eterno presente. Beh, mi viene da dire, e sono retorico, ma volutamente retorico, non è per caso, ecco. E dopo Aya, con che tra l'altro appunto giovane artista, giovane insomma progetto legato alla PAM Record e New Life Flower, da pochissimo insomma uscito. E anche qua una sorta di malessere, di grande malinconia, però appunto portato a una forma di grande insomma distopia, poi anche sonora, insomma una sorta di Carpenter alla misasa odierna, potremmo dire, e forse anche con quel meno senso della sorpresa, ecco, del sorprendente, del meraviglioso, anche così horror che c'era appunto dentro le musiche di Carpenter. Qua prendono quasi un aspetto appunto da braccio mortale, ecco, se vogliamo, e come d'altronde le musiche di Lorraine Hallow, che insomma, 451 frammenti sonori, spesso è passata musiche che sembrano spesso senza nervo, una sorta di musica quasi tra sinfonico e cosmico, ma senza quella potenza, depotenziate appunto sia in termini di immaginari appunto cosmici che in termini appunto di potenza sinfonica. Però tutto questo poi alla fine in realtà si sente dentro le musiche, ma si sente come operazione quasi di sottrazione, una sottrazione appunto vitale a queste musiche che creano appunto in maniera paradossale un altro tempo e altri tempi, buona parte insomma dei lavori di Lore Analo, che appunto ce l'andiamo ad ascoltare da quest'ultimo Roll Sick Uncut Wood, con questo senso anche proprio di malinconia insomma quasi disperata, e forse più che disperata proprio dispersa appunto dentro dei tempi che si vogliono diversi, ma probabilmente vengono anche, come dire, smarriti proprio dentro gli umori stessi della musica appunto di Lore Analo. Thank you. tra le autrici elettroniche sicuramente importanti, lo realo, anche se poi di fatto c'è chi anche ascolta musiche sperimentali che non ama questo tipo di come dire, mortificazione poi di un anche a ragione poi per certi versi di un immaginario molto forte, se vogliamo anche felice poi per molti aspetti, che è appunto quello cosmico, o comunque quando non era felice era comunque un effetto di deflagrazione alterata anche in termini di droghe, di comunque un'alterità che faceva immaginare un altro, insomma, quando appunto c'era un'idea di futuro. Ecco, probabilmente è proprio questa, ma è anche proprio la grande capacità di Lauren Hallow, insieme tra l'altro a altre donne che trattano la faccenda elettronica proprio alla sua maniera, quello appunto di rendere queste musiche che comunque hanno ancora quel rimando, quindi di fatto vivono di quella perlomeno moralità, ecco, se non so, vogliamo proprio chiamare proprio visione, però insomma appunto tolta da quel vitalismo che comunque di fatto c'era dentro le musiche appunto cosmiche, e con un'idea appunto sinfonica tecnoide, ecco, se pensiamo insomma a certi anni 90, no? Certe appunto anche escapismi, ma non solo, anche proprio costruzioni di fatto, anche poi tra l'altro portate anche per certi versi veramente sul sinfonico, se pensiamo insomma alla Deutsche Grammophon e ai lavori commissionati a Moritz von Oswald, a Carl Craig, a Herbert, anche se quello poi non è che sia particolarmente riuscito, comunque di fatto insomma è il concetto che ci interessa. E come Lauren Hallow porta questa appunto alterità del tempo, dei tempi, e se vogliamo anche appunto una sorta di coscienza del presente che appunto fa smarrire in maniera paradossale, poi appunto prendendo coscienza di questo smarrimento, di questo loop temporale, di questo presente infinito, beh, probabilmente si potrebbe, mettiamo così, prendere coscienza di quello che potrebbe essere invece appunto un futuro. I've Tumor funziona in questa maniera, appunto già il nome decisamente urticante, ecco, e ci porta appunto a una diagnosi quasi della malattia, dello stato insomma morboso, e facendo questo però appunto ci fa prendere coscienza, e facendo questo non è che dà appunto quella allure, quell'estetica del morboso che per tanti aspetti insomma è stata anche importante in molte musiche alternative. Poi non c'è questo, ecco, non c'è il fascino insomma della decadenza, ecco, in questi autori sicuramente non c'è, in questo senso appunto si creano veramente degli altri tempi rispetto a quello che è stato, ecco. I've Tumor lo andiamo a sentire dalla bella compilation Mono Noewer, dove appunto per tutti i quasi 80 minuti c'è questo sorta di debilitazione di un suono appunto che di per sé appunto un immaginario d'un vitalismo appunto esplosivo, cosmico. Qua tra l'altro c'è veramente un piano malinconico inserito dentro la tessitura sonora appunto di I've Tumor, che porta insomma ancora di più forse a prendere coscienza appunto dello stato insomma decadente, malato, della potremmo dire appunto del tempo, dell'attuale tempo, comunque con questa sorta di domanda senza risposta ovviamente, non la pretendo, voi non pretendiatela da me, e Max Macchia comunque vi saluta, vi rimanda a mercoledì prossimo, non so, tempeste di neve, insomma, affrontando anche quelle, e appunto, come al solito, anche questa sera, insomma, forse meno di altre volte ci vorrebbe, comunque l'augurio, insomma, di fare i bravi, non me lo voglio scordare neanche questa volta. Ciao da Max Macchia, e appunto, fate i bravi. I Have Tumor. Say something.